Storielle. Storiacce. Fiume in piena, Mohammed Daki ripete in continuazione il suo desiderio di tornare in Italia per difendersi nell'aula di un tribunale da quell'accusa di terrorismo internazionale per cui dopo 2 assoluzioni è stato condannato. Da Casablanca protesta per quest'ultima sentenza ed è pronto a fare battaglia, annuncia, innanzitutto per riavere i suoi documenti. Questa sentenza io trovo una sentenza ingiusta. Perché io ho chiesto che il processo non venga svolto in contumacia. La mia presenza al processo non è soltanto imposta dalla legge, è anche un mio diritto. Non hai potuto farlo perché non avevi documenti. Dove si trova il mio passaporto? Io cerco il 3 febbraio, giovedì 3 febbraio 2005, e io ho scelto in carcere di Como. Io ho visto il mio passaporto agli agenti di Degos di Como. Poi io ho scritto tante lettere e ho parlato con il mio avvocato dottor Borani Weiner, che ha saputo dalle autorità italiane che il mio passaporto ha consegnato alle autorità marocchine di Rabat per il tramite del consolato di Bologna. Poi scritto lettere e andato a piedi alle autorità marocchine di Rabat. Hanno risposto così: signor Daki Mohammed a proposito del mio passaporto, abbiamo l'onore di informarla che la polizia giudiziaria di Casablanca ci ha confermato che il seguito al mio arresto in Italia 4/4/2003, il mio passaporto è custodito dalle autorità italiane. Per quello io voglio, perché dove si trova il mio passaporto? Io ho fatto una lettera ai ministeri interni pisano e io trovo in Marocco adesso forzatamente. Io non ho capito come c'è un tribunale e c'è un accusato di terrorismo e io voglio andare all'Italia per presentare e loro non danno mia legge. Adesso tu come vivi, Daki? Io dico la verità, miseria. Non posso lavorare, non posso niente. Io ho scritto una lettera a Germania. Scritto a Germania per andare a Germania, se possibile, perché io non ho fatto niente. E dopo la sentenza io scrivo anche alla Corte di Giustizia Europea di Strasburgo. Vivo con mia madre, 60 anni. E io parlo con mio bambino sabato e domenica. Ma mio bambino dice sempre, papà, vieni con me. Io dico solo, io lavoro, perché non posso andare a lui, non ci sono lì. Dov'è adesso tua moglie con tuo figlio? Mia moglie in Italia, lavorare in Italia. Mio bambino in Rabat, 60 chilometri a mia casa, a Casablanca. Io in Casablanca. Con chi vive tuo figlio? Con famiglia di mia moglie, perché loro ricco. E io non posso fare niente, se io mangio mattina non posso mangiare la sera. Perché non posso lavorare, non c'è carta d'intenta, tutto è vietato. Perché loro dicono c'è una forza terrorista, forse, ma io non terrorista, non niente, ho pagato per niente. Voglio sapere se io ho fatto qualcosa. Per quello ho scritto tante lettere per andare a tribunale, per presentare. C'è legge, ma questa sentenza politica. Le accuse che gli sono rivolte però sono gravissime. Si parla del reclutamento di attentatori suicida, della creazione di una rete di terroristi in Italia, di attacchi da realizzare nel nostro paese. Fatti che Daki considera del tutto estranei a sé, ma non metterebbe la mano sul fuoco, ammette, per altri connazionali che ha conosciuto e ospitato. Moschia. Aiuta di Araba, Tutto questo parte semplicemente dal fatto che tu hai dato una mano, hai aiutato Ben Shiba. Sì, per quello dei poliziotti di Germania lo sapevano, perché ha fatto indirizzo a lui. Io ho detto lui vuole le terre con sua famiglia in Yemen. Io ho fatto anche mano a altre persone, fatto a una persona francese. Siamo fratelli, non siamo, ma questa guerra di politici. Io non sono politico, gente che non fanno niente adesso in carcere. E io adesso malato, perché non ho fatto niente e pagato per niente. 28 novembre 2005, alla Corte d'Appello di Milano, io ho parlato con una donna. Ha detto, sì, ho fatto qualcosa, dimmi, io voglio sapere. Io non sono terrorista. Ho pagato 11.000 euro per fare soggiorno a me e a mia moglie. Ancora, dico la verità, non ho capito chi sono dei terroristi. In Italia hai mai sentito persone che parlavano del Duomo di Cremona, della metropolitana di Milano? No, niente. Io sono in Germania con gente, studenti. Tutta quanta la sua inchiesta è partita proprio dalle leggi speciali che sono state introdotte dopo l'11 settembre. Io quello che le chiedo è, lei che cosa pensò dei fatti dell'11 settembre e come vide in TV degli attentati? A martedì 11 settembre ho lavorato, a sera io ritorno a mia casa. Mia moglie ha detto c'è qualcosa in America. Poi io ho visto in sera, io ho visto in televisione che in New York c'è due terroristi islamici che hanno fatto di bombe. Io sono contro loro, perché sì, anche io musulmano, contro i terroristi musulmani, perché quello no, Dio non dice quello in Corano. Problema c'è, dopo 11 settembre c'è leggi severe contro stranieri. Io ho pagato per altri. Chi sono gli altri per cui sta pagando? 23 marzo 2003, io sono in Reggio Emilia, la casa mia. Un amico algerino, si chiama Abdruzzak, ha parlato con me in telefonato, ha detto se è possibile fare un mano a una persona due o tre giorni dormire. Io ho detto no problema, forse venerdì 28 marzo. Ha venuto questa persona, si chiama Max Amis Cisk Abdullah, un somalo, nazionalità inglese, centrale di Reggio Emilia. Salutato e andato con lui a mia casa. La sera andiamo insieme in città. Poi sabato andato con lui e io ho pagato per lui una t-shirt, una due camici per lui. Domenica a 12 io andato a ritornare a Germania a Abdruzzak, ma io non ho parlato con me, c'è qualcosa, ha detto qualcosa, non lo so, perché anche a mia lettera ha detto l'unico modo per fare cadere questa cosa è confronto faccia a faccia con questa persona Max Amit Cisk Abdullah, e personaggio di nazionalità inglese. Io ho detto voglio faccia a faccia a lui in tribunale. Che cosa avrebbe fatto? Loro dicono lui vuole andare a Siria. Io già in carcere. Dopo in carcere, il dottore Stefano D'Ambrosio ha detto, ha scritto che lui deve andare a Siria per combattere in Iraq. Ma io non lo so se lui è andato o non è andato, non lo so. Io ho parlato con mio Abdruzzak, mio amico, ha detto solo due giorni o tre giorni dormire. Una persona si chiama dottore in Milano, di Degos, ha detto io lo so, tu non fai niente. Io ho detto perché io in carcere? Ha detto sì, tu devi lavorare con noi. Io ho detto non posso lavorare con te, perché non posso. Io non capisco questa frase. Perché Abdruzzak, lui è stato assolto. E questa persona 5 anni e 6 mesi, sì, una persona terrorista, perché dai 5 anni, 4 anni, non lo so dove lui ritornare in Germania, non lo so, perché lui è sposato con tedesca.